Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. Eccoci qua, è iniziata la nostra intervista, 5 minuti per raccontare e raccontarsi. Siamo in diretta con la nostra mitica sposa. Dillo te come ti chiami? Sono Anna. Anna, tra l'altro la caramba l'abbiamo nominata, no? Caramba, che sorpresa, vero? Ok, e poi abbiamo le amiche, vai amiche, presentatevi. Daniela, Maria, Eleonora, Francesca. Uè, ci siamo quasi tutte, no? Le abbiamo perse un po', vero? Un pochino, sì. Salutiamo quella che aveva l'attacco alla schiena, come ciao, si chiama? Ciao Silvia. Ciao Silvia, ecco, ci sta riprendendo da fuori. Ciao Silvia, grazie. Allora, vi è piaciuto il convento, ragazze? Eh? Sì. Avete ballato? Tu eri te sul tavolo? Che ballavi sul tavolo? No, sì. È salita? Sì, l'ho vista. Sì. T'abbiamo visto, eri lì sul tavolo scatenata con gli altri sposi, le spose, tutte lì. Neanche sul cubo, è andata sul tavolo addirittura, eh? Ah, giusto? Sì, giusto. L'abbiamo beccata in pieno. Allora, poi ragazze, spiegatemi un attimo, chi ha organizzato un po' tutta la festa? Io, Daniela, un po' tutte? Quindi l'idea di vestirla da carabiniere era abbastanza vostra, cioè comunque, sì? Ma in realtà da essere un'anime, non si poteva sbagliare qua. Ma lei lo sapeva o non lo sapeva? No, non lo sapeva. Quindi no. Era a casa in ciabatte oggi, giusto? Ero in bagno. Proprio in bagno eri? Proprio in bagno. Non diciamo cosa sta facendo in bagno, però era lì così, impegnatissima in bagno. Voi siete entrate così? Urlando. Tipo, fatemi l'urletto. Era irritante, quindi. Esatto, sì, era molto. Ah, così, proprio. Tu eri in bagno. In bagno, tra l'altro. Fantastico, quindi tu non ti aspettavi nulla, loro sono entrate così. Sì. In bagno urlando, l'avete presa? Avete aspettato un attimo? L'avete. Ti hanno preso di prepotenza? No dai, sono state brave. E dopo raccontatemi. Dopo mi hanno vestito. Sì. Abbiamo stappato la bottiglia. Lo secco per iniziare. Già, giusto per iniziare. Che ora era? Le 6 del mattino? No, dai. Ah, alle 3 del pomeriggio. Quindi l'avete vestita e dove l'avete portata? A Desenzano. A Desenzano in giro, vestita da carabiniere. Sì. E dava le multe? E certo. Per quello hai fatto tutti quei soldi. Sì. No, ma le varie penitenze cosa sono state? Allora, dovevo cantare, soprattutto cantare. Sì? No. Ragazze, è un momento topico. Dopo questo non può mancare in diretta radio l'esibizione di Anna. No, cos'è, whisky ragnetto? No. Quello non l'ho mai sentito, mi piacerebbe. Lo faccio abbastanza al lavoro, è sufficiente. Tu al lavoro canti? Che lavoro fai per cantare whisky ragnetto? Sono maestra di asilo nido. Ah, è maestra di asilo nido? No, pensavo, ho detto magari lavora in banca e allora viene canto. Pensionato, lei gli canta whisky ragnetto. Ecco. Perfetto. Però dai, a me un accenno tutti assieme, dai, me lo fate? Va bene, dai. Ci siete? Va bene. Pronte? Vai. Allora. Whisky ragnetto, sale la montagna, la pioggia lo bagna, whisky cade giù. Questa, aspetta, sono partiti gli applausi? Si sentono? Poi, dopo whisky ragnetto, l'altra qual era? Lo sceriffo, non è male. Quella mi manca, vai con lo sceriffo. Lo sceriffo ha i baffi, il cappello, la cintura, la stellina, le pistole, ma non sa sparare, pim pum, e tutti insieme, bam! Oh, sentiamo qua anche. Perfetto, andiamo benissimo, andiamo bene. Fantastico, ne è saltata una però, qual era l'altra? Basta. Può bastare così. Sono momenti toccanti, ragazzi. E tu ai bambini li canti queste. ma li obblighi? No, non possono porsi? A loro piace, sono piccolini. Ah, sono loro che te lo chiedono proprio? Come fanno, maestra Anna? Ti chiamano maestra Anna? Che dolce, maestra Anna. Non te l'ho mai visto vestita carabiniere, però? No. E in versione cubista nemmeno? Neanche. Che saranno, immaginate i bambini che la vedono tutta dolcina così, che la vedono adesso vestita carabiniere scatenata sul cubo. Che storia. Hai sposato il papà, vedi? C'è questa cosa qua dei papà. Ma ci sono i colloqui all'asilo? No? Quindi immagino i papà che vengono sempre volentieri ai colloqui, giusto? Sempre presenti. Adesso ci sarà qualcuno che... Ma io ti ho ascoltato in radio, oh, ti ho visto. Ma io a lei l'ho vista sul cubo. Ah, ti immagini? Che storia? Sarebbe un po'. E dai, ormai sei famosissima, hai fatto anche l'intervista all'inizio. Avete cantato in sala YouTube? Non ancora. Vi manca anche quella, dovete fare le foto, le avete fatte? Quindi vi manca là, così proprio poi hai fatto proprio il top, hai fatto tutto, Anna. Ok, non ti ho chiesto come ha fatto a chiederti di sposarti, però. Lo sapete voi ragazze? C'eravate? No, nessuna? Non erano presenti. Quella ragazza d'altro sta pregando di raccontare. Dai, raccontacela brevemente. E una mattina praticamente io ero, cioè ci siamo, eravamo appena svegli, ho deciso di preparargli le crepe per colazione e lui si è svegliato e ha visto che era indaffarata in questo e ha deciso appunto di tirare fuori l'anello e chiedermi di sposarmi. Nel momento della crepe, ha detto, è il momento giusto, il momento della crepe, il momento giusto. Una mattina a caso, di un momento qualunque? Sì. Dopo quanti anni? 5 anni e mezzo. 5 anni e mezzo? Tu lo pressavi? No. No? No. L'hai mai messo con la lampadina? No, confessa mai. No, tipo devi interrogatorio. Sposare. Devi assolutamente sposare? No. Nessuna minaccia, spontaneamente così. Spontaneamente, è stato bravo. Che bello. Allora, tutta serie che domando alle spose, come ha fatto a chiedere, sono sempre curioso, no? Però i maschi ultimamente stanno cadendo un po' di poesia, no? Nel senso, la mattina con le crepe, un'altra gliel'ha chiesto in pigiama prima di dormire. Sì. Cioè, sai quei sogni da bambina? Avete tutte, no? Un sogno da bambina, il principe azzurro, giusto? Sì, vabbè. Sì? Penso. Sì, va bene. Ci sta. Tu guardi ad altro, giusto? Brava, che ragazza profonda. Facciamo un applauso alla nostra Anna. Grande Anna, grande, dolcissima. Ok, dobbiamo parlare 5 minuti. Sono già passati 7 minuti senza accorgersi. Tra l'altro, tu stai ascoltando qualcos'altro? No, la vedevo concentrata. Tipo, sembrava un quiz. Sembrava. Adesso la indovino con due. È prontissima proprio, la indovino con due. Dai, salutate tutti al microfono. Ciao da. Ciao! Tutte assieme contemporaneamente? Ah, va bene. Ciao dalle ragazze di Vicenza.